Elisir, pillole per curare le emozioni. L'appuntamento con te stesso, a cura di Federica Zani. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Elisir, pillole per curare le emozioni. Il nostro appuntamento del sabato mattina per imparare a conoscerci meglio e prenderci cura di noi stessi. Come sempre vi accompagna Federica del blog latavlaesmeralda.com. La settimana scorsa abbiamo parlato della zona di comfort e dell'importanza di spingerci, di stimolarci a uscirne se vogliamo metterci in connessione con il nostro potenziale interiore e incontrare il nostro proposito di vita. Oggi voglio parlarvi delle 7 strategie principali che utilizza l'ego, cioè la mente, per farci restare intrappolati nella zona di comfort, facendoci credere che non abbiamo bisogno di cambiare, migliorare noi stessi. Ma prima di iniziare ci ascoltiamo, come sempre, una bella canzone qua su Italiana, la tua radio sull'isola. La nebbia che si posa la mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca canto, la voce in festa canto, la banda in testa canto, corro nel vento e canto, la vita intera canto, la primavera. L'odore del caffè nella cucina, la casa tutta piena di mattina, e l'ascensore che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca canto, la voce in festa canto, la banda in testa canto, corro nel vento e canto, la vita intera canto, la primavera. A Elisir. Oggi iniziamo la nostra puntata alla scoperta dei vari giochi dell'ego, quelle strategie mentali inconsce che ci fanno credere che tutto va bene così, che la nostra vita è perfetta e che sono gli altri coloro che sbagliano e devono cambiare. Strategia numero 1. Il bisogno dell'ego di sopravvivere, cercando l'approvazione esterna. Per esempio, raccontando qualcosa di straordinario che ci è successo a altre persone, per riceverne l'approvazione immediata. Oggi questo succede anche attraverso le reti sociali, quando condividiamo una foto, un'informazione o un articolo e subito ci approvano con il famoso mi piace. L'ego ha bisogno di rendersi visibile agli altri. 2. Dimostrare che abbiamo ragione e dimostrare che l'altro si sbaglia. L'ego ci fa credere che abbiamo sempre ragione e, ovviamente, ci spinge al conflitto con chi vuole dimostrarne il contrario. Questo è alla base di ogni discussione, dove il voler tenere la ragione, costi quel che costi, produce veri e propri conflitti a volte infiniti. Se non siamo ancora abbastanza contenti con il fatto di voler avere ragione, allora ci impegniamo anche a dimostrare che l'altro ha torto. Quindi siamo più propensi al conflitto che a cercare soluzioni e alternative. E questo alimenta sempre di più il nostro ego. 3. L'ego si manifesta anche attraverso la dominazione, facendo sì che le cose siano come noi vogliamo e che la gente pensi quello che noi pensiamo. Questo molte volte succede anche in maniera automatica e senza che ce ne rendiamo conto, facciamo di tutto per convincere l'altro a pensarla come noi. Ma possiamo anche rifiutare di essere dominati. Da una parte vogliamo dominare, ma dall'altra parte non vogliamo essere dominati. Ogni volta che qualcuno ci dice come dobbiamo fare le cose, tiriamo fuori le unghie per difenderci e non farci dominare. Se non lo facciamo, l'ira prende il sopravvento dentro di noi perché sentiamo di essere stati dominati. 4. Proteggersi e coprirsi. Quando qualcuno scopre o noi stessi scopriamo un nostro errore, la strategia che utilizza l'ego per proteggersi e non essere scoperto è mentire immediatamente. Quello che diremo sarà: la verità è che non sono sicuro di avere ragione. Anche se vediamo il nostro errore, continuiamo a discutere, così ci autoconvinciamo che stiamo cercando di riconciliarci con l'altro, però che in realtà abbiamo noi la ragione. 5. Posizionarsi difendendo un punto di vista. L'ego sempre si posiziona giudicando una parte come buona e una come cattiva. Si posiziona nella buona, la difende e attacca la cattiva. In questo modo il nostro punto di vista diventa assoluto e quindi lo difendiamo a tutti i costi perché vogliamo vincere. 6. Difendere un'idea con violenza. La lotta tra un ego e l'altro molto spesso diventa violenta quando si tratta di difendere degli ideali che l'ego crede come delle verità universali. E infine abbiamo anche un ego più sofisticato e sottile di tutti, che agisce in maniera molto nascosta. Ma prima di parlarvene ci sentiamo una bella canzone qua su Italiana, la tua radio sull'isola. Bentornati a Elisir, io sono Federica del blog latavlaesmeralda.com. Oggi stiamo parlando delle varie strategie dell'ego per farci credere che il problema sempre sta fuori da noi e quindi ci allontana dalla connessione con la nostra essenza. L'ultimo gioco dell'ego è quello più sottile ma anche più pericoloso, perché se ben mascherato è uno strumento di manipolazione di massa. L'ego spirituale, sentire che siamo migliori degli altri e rallegrarci del fatto che gli altri lo sappiano. Godere del fatto che gli altri non possono avanzare così velocemente come noi, o realizzare azioni che impediscono agli altri di espandere la loro coscienza, come per esempio seminare la paura affinché non cerchino di risvegliarsi e non condividere informazioni che potrebbero aiutarli nella loro crescita personale. Adesso che conosciamo le strategie dell'ego, il passo successivo è quello di imparare a restare nell'osservazione, vedere come agiscono e accettare che sono presenti in noi. L'importante è iniziare a osservare come l'ego domina il nostro modo di essere e proporci l'obiettivo di trascenderlo. Ricordiamoci che per trascendere, cioè oltrepassare i limiti del nostro ego, il primo passo fondamentale è osservare e accettare il punto dove stiamo. Se non lo facciamo, cadremo inevitabilmente nell'ego spirituale, che spesso ci fa credere che non siamo ego, che stiamo in un altro livello, ma in realtà solo stiamo giocando un'altra partita, dove lui comanda senza che ce ne rendiamo conto. Ricordiamoci che non esiste una verità assoluta, perché la verità è un punto di vista e dipende dalle nostre credenze, che sono condizionate dalle nostre esperienze. Il proposito è sviluppare la capacità di osservazione che ci permetterà di vederci al di fuori, distaccati, come osservatori della realtà. Come spiega molto bene la fisica quantica, l'osservatore determina la realtà. Nel 1909 il fisico Taylor effettuò un test scientifico per esplorare la sostanza di cui si compone il corpo umano e l'universo. Il test consiste nel proiettare dei fotoni, particella elementare della radiazione elettromagnetica, contro una barriera con due fori per poterne osservare il comportamento. Ciò che ci si aspettava era che i fotoni transitassero per i due fori uno alla volta. Invece, inaspettatamente, ogni corpuscolo, singolarmente, cambiava forma diventando un'onda e attraversava i due fori simultaneamente, tornando successivamente corpuscolo. Nella fisica tradizionale questo non è ritenuto possibile, non ha senso. Come aveva fatto la particella a sapere che vi era più di un foro nella barriera? La conclusione fu che l'osservatore, l'unico che poteva sapere dell'esistenza del doppio foro, aveva influenzato la particella attraverso il semplice fatto di essere presente all'esperimento. L'informazione presente nell'osservatore aveva fornito le istruzioni della nuova forma da assumere, dovendo muoversi in presenza di due fenditure. Questo esperimento fu ripetuto nel 1998 con apparecchiature più sofisticate e il risultato non solo non è cambiato, ma è diventato più ampio. Più le particelle venivano osservate, più erano influenzate dall'osservatore. Quindi l'esperimento sostiene che la realtà è il risultato fra osservatore ed osservato. Nella prossima puntata vi parlerò di come iniziare a sviluppare l'osservatore che c'è in noi e gli effetti che avrà sulla nostra vita. Ma prima di lasciarvi con i saluti finali e con la frase che oggi ho scelto per voi per ispirarvi, ci sentiamo una bella canzone qua su Italiana, la tua radio sull'isola. Chi sei? Amore, buongiorno. Quando ti levi di torno non vedo l'ora che esci e non torni più. Il mio amore sei tu, sei la donna che voglio. Vorrei dirti parole d'amore, ma forse a parlare sei più brava. Tu ti va un'altra Grey Goose. Accendiamo un film porno. Già ti vedo vestita di rosa, ti comprerò casa. Sei tu la mia sposa, ma scendi più giù. Vieni a darmi il buongiorno. La notte è già finita, Angelina. Ma tu sei così bella, Angelina. Bentornati a Elisir, vi ricordo che potete scrivermi le vostre domande, dubbi, idee a federica@latablaesmeralda.com. Tutte le puntate di Elisir sono presenti nella versione podcast nella mia web latablaesmeralda.com o nella web italianamaiorca.com. Oggi ho scelto per voi due frasi per ispirarvi. La prima è dello scrittore peruano David Fishman. La grandezza dell'ego di una persona si può misurare nel modo in cui gestisce gli errori che commettono gli altri. La seconda è del famosissimo scrittore e poeta Oscar Wilde. L'egoismo non consiste nel vivere come ci pare, ma nell'esigere che gli altri vivano come pare a noi. Vi ricordo di seguirmi nelle reti sociali, Facebook, Instagram, YouTube. Io sono la Paola Esmeralda e vi aspetto sabato prossimo per una nuova puntata di Elisir. Un abbraccio a tutti e buon weekend! Elisir, pillole per curare le emozioni. L'appuntamento con te stesso, a cura di Federica Zani.